finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Siamo fatta finalmente ad arrivare. Ad arrivare dove? A stare. Ma soprattutto quello che non so, non riusciamo a così a farcene una ragione di come in questo breve periodo in cui in qualche misura si è professato, si è detto, si è pontificato che era una roba per riconquistare il tempo, eccetera, un po' quello che noi andiamo dicendo dal 2002, almeno per quanto riguarda questo spazio radiofonico, cioè di seguire l'avviso di disconnessione e di recuperare il tempo che ci hanno rubato, la 25esima ora appunto. Ora ce l'ambastiscono, insomma, che finalmente in questo periodo così, che quasi ci hanno regalato tutto sommato, no? Che siamo stati tutti bravi, tutti ligi al dovere, eccetera, eccetera, eccetera, bravi e brave. A me mi pare che andiamo sempre di fretta e non riusciamo proprio a recuperarlo questo tempo. C'è qualcosa che non funziona a monte nell'ingranaggio. Invece quello che funziona bene in questo periodo, in special modo quando siamo chiamati a funzionare, è proprio Radio Onda Rossa. Almeno a nostro giudizio, a nostro avviso, speriamo anche al vostro. Nel frattempo senti che roba. Just can't find the time. Will we pass through one? Partono le pernacchie, la pernacchia da cellulare, dicevamo. Da cellulare che entra e disturba. Le scarse attrezzature di cui siamo dotati da remoto. Comunque, dicevamo, Radio Onda Rossa funziona bene, lasciamola funzionare per altri, almeno per un altro anno. Almeno quello vi chiediamo, siamo insomma così, non facciamo il passo più lungo della gamba, sappiamo che avremo tanto tempo davanti, ma andiamo per ordine, un anno alla volta. Parte quindi la campagna di sottoscrizione già da qualche mese, siamo quasi al termine, che normalmente coincide con il compleanno di Radio Onda Rossa il 24 di maggio, quindi avete ancora del tempo per aderire alla campagna 30 per 1000. 30 euro per 1000 di voi significa appunto, come dicevamo poc'anzi, un anno di Radio Onda Rossa. Trasmessa anche da remoto. Quindi andate sul sito www.ondarossa.info, dove oltre che trovare quello che vi siete perduti dalla diretta, dallo streaming, perché ci trovate i podcast delle cose più salienti che la radio autoproduce, ve le andate a scaricare e ve le riascoltate con comodo. Questo lo potete fare anche con gli spazi che conduce il sottoscritto, sempre in una redazione un po' allargata, anche se in questo periodo non corporea. Comunque, dicevamo, www.ondarossa.info, il sito dove trovate anche il banner della campagna 30 per 1000 di radio abbonamento. Ondarossa@ondarossa.info, la mail per le vostre comunicazioni alla radio. 0649 1750 per quando ci siamo in redazione, il telefono di Radio Onda Rossa. Onderossa.info, la casella di posta elettronica dello spazio che state ascoltando. Vi ricordiamo che da un po' di settimane abbiamo messo in atto, quando possiamo, un po' di trip virus, cioè di registrazioni che prepariamo di manipolazioni, insomma, con di cross art, la possiamo chiamare così? No, è troppo artigianale. Comunque, degli impicci, delle cose, dei marchi ingegni che facciamo, sonori, audio, dei montaggi, insomma, dove ci sta un po' di tutto. Mandateci le vostre proposte, realizzate quindi dei mix, li manderemo senz'altro in diretta. 25oclock@ondarossa.info potrebbe essere la mail sul quale comunicarci, dove, come trovare il vostro trip virus. Questo è un piccolo estratto proprio per dare un esempio di come funziona la cosa. Dell'emergenza. Questa si chiama Allarmismi e Panico ed è una nostra produzione da capo. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Delle informazioni attendibili. Allarmismi e panico. Tutte le rassicurazioni. Gli esperti. Gli esperti. Tutte le rassicurazioni. We'll be right back. gli esperti, tutte le rassicurazioni, allarmismi e panico, televisori, giornali, tutte le rassicurazioni. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Tosse, riniti e podare polmoniti. Evitare allarmismi, psicosi. Tutte le rassicurazioni, televisori, giornali, tosse, riniti e podare polmoniti. Gli esperti. Tutte le rassicurazioni, televisori, giornali. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Gli esperti. Delle misure per contenere l'infezione. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Televisori, giornali. Delle informazioni attendibili. Tosse, riniti e podare polmoniti. L'infezione. Un'unità di crisi. Evitare i luoghi affollati. Un'unità di crisi. E mettersi delle mascherine. L'infezione. Allarmismi e panico. L'infezione. Mascherine. Mascherine. Mascherine. Mascherine. It's tough out there. It's a goddamn jungle. Mascherine. L'infezione. Infezione. Allarmismi e panico. We'll be right back. È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. E era il 2004 quando usciva questo. Questo lavoro che si chiamava sempre dalla parte del torto, Strict Line, in realtà Airesis, lontano 2004, con citazione cinematografica finale. Tutto sommato non è cambiato molto, anzi. In tutta questa roba che viviamo dovremmo aver imparato qualcosa dal passato. Ci sono molti che dicono, hanno dubbi, ma potrebbe essere poi che tutto sommato questa sperimentazione dei domicili coatti per grande parte della popolazione sta fatto di mandare a lavorare la gente magari nelle fabbriche o nei luoghi affollati e poi tutta la pantomima eccetera, ma sarà che forse sarà una sperimentazione per cui poi in futuro... Ma che sperimentazione, compagni? Lo stanno facendo, punto e basta. Non è una sperimentazione, ma la realtà. E per questo andiamo al core stasera. E le armi di distruzione di massa sono le cucine che ci raccontano ogni giorno, politici e giornalisti, vassalli della cultura. Bada. Sempre pronti a chinare il capo di fronte alla loro nuova duce. Che tutto ciò è di fondamentale importanza per tutti coloro che stanno regnando e che desiderano farlo, preferibilmente per sempre. un sovversivo? È una persona a cui non resta molto tempo da cantare. Rinnegare. E prima Grandine da Taranto, Opophobic a Radio Onda Rossa 25 o'clock. Si strilla. Per la grande ipocrisia che si manifesta in ogni angolo, in ogni luogo. È il mio tempo che se ne va. Attraversato da vecchi e nuovi potenti, portati in auge proprio dalla crisi, chiamiamoli così. Coloro che dicono ci penso io. E infine la soluzione più facile è quella di uno stato di polizia, certo. È quello più agevole, il passo facile da fare. Anche perché di poliziotti veri e presunti ce n'è sempre una pletora disponibile. Chi non ama l'autogestione, il saper fare le cose, il senso di responsabilità è sempre un poliziotto. Freticore. Il lavoro del 2013, questo. Ancora punk HC. Illuso, tanto da qui. E come ha comandato. Non sono mai stato bene con quello che mi dai. Intolleranza ai pochi. La fine dei tuoi tristi giochi. Sacrificed our life fighting the apartheid regime, hoping that things would be better. We are going for a revolution. Vabbè, insomma, Cresta e soci, destroy your system mediamente. E adesso ancora da Taranto, dallo split proprio con gli Obophobic che abbiamo ascoltato in precedenza, So Fucking Confused, SFC, The Worm. Eccolo da capo. We are going for a revolution. Yeah. 786. Casi totali 3786. Casi totali 3786. Continuano ad aumentare le vittime. Continuano ad aumentare le vittime. Le vittime. Le vittime. Le vittime. Casi totali 3786. Meno di quelli dichiarati. Casi totali 3786. La curva ha iniziato sostanzialmente a scendere, anche se non in modo lineare. Lineare. Lineare. Lineare. La curva ha iniziato sostanzialmente a scendere, anche se non in modo lineare, lineare, lineare, lineare. Casi totali 3786. Meglio specificare. Lineare. Dobbiamo essere ancora cauti nel leggere quei dati. Casi nel mondo avrebbero raggiunto la punta massima. Massima. Massima. Meglio specificare. Massima. Meno di quelli dichiarati. Massima. Sono la somma di guariti, decessi e attualmente positivi. Meglio specificare. Casi totali 3786. Casi totali 3786. Cerchiamo le cifre ufficiali. Meno di quelli dichiarati. Meglio specificare. Thank you. Meglio specificare. Oltre mille i morti. Meglio specificare. Più 1189 positivi, 525 decessi. Aspettiamo le cifre ufficiali. E ieri i numeri sono meno 143 terapie intensive. Meglio specificare. Più 1189 positivi. La curva ha iniziato sostanzialmente a scendere, anche se non in modo lineare. Sono dei dati, come dicevate voi prima, un po' contrastati. Più positivo. Un po' contrastati. Contenere i focolai. E ieri i numeri sono un po' contrastati. Più positivo. Casi totali 3786. E ieri i numeri sono Milano 41, 48, 17, 86, 70, Napoli 2, 54, 80, 60, 28, Palermo 28, 7, 1, 30, 75, Roma 89, 71, 81, 79, 88, Torino 65, 48, 19, 6, 90, Venezia 88, 54, 70, 76, 77. Sono la somma di guariti, decessi e attualmente positivi. Autoproduzione da queste parti, 25 o'clock, Radio Onda Rossa 87.9, delle modulazioni di frequenza della banda romana e laziale, www.ondarossa.info, il sito dove anche potete trovare per ascoltare la radio in streaming. Un momento un po' autoreferenziale questo. This piece of news is read over the radio. Those people hear it. And I was told time and time again that it must be true. It is true. It came over the radio. E fra qualche istante, dopo che ci ascolteremo questa I Am Not a Robot interlude di Jay Shadow, e poi ancora di Jay Shadow featuring Straw, Yo-Yo's World. Because they know what will happen to them if they don't say it's true. Abbiamo preparato pure questa settimana un breve eccoci siamo tornati, no, un breve non tanto, perché alla fine sono 32 minuti e 50 secondi. Virus fase 2. Ma probabilmente ce n'è anche per una fase 3, di materiale. Ricordiamo che se volete, quando volete, e anzi sarebbe proprio ben... It is true. It came over the radio. But I could sit right there and see through the things that were being said. I'm not really sure in my own mind if those people believe it because they really do think it's true, or they just say they believe it because they know what will happen to them if they don't say it's true. Dicevamo, sarebbe molto ben accetta una vostra partecipazione a queste sperimentazioni. Queste sperimentazioni. My best year. Y'all probably saying, how did he get here? I recollect while I sit here. Nothing is going right. Dreaming that my demons is on. L'avevamo annunciato quindi DJ Shadow featuring Straw. Yo-Yo Words. Raised by the system, Pops was a victim. The one to sell, but they was about to convict them. And his whole family. The Our Pathetic Age. It's insanity. Recently she been strung out. Caught her where the drug dealers hung out. She seen me and ran like shots rung out. Just a matter of time before the block come out and tell me I'm a crack baby. I need a yak maybe. I'm only 15, it's that crazy. Blood on my hands, blood on my wrist, yeah. Fighting the pain, clenching my fist, yeah. Y'all probably saying, how did he get here? I recollect while I sit here. Grandma say life is precious, but I can't stand it. I ain't living life, I'm doing life on the planet. I got a friend in my head that understand it. That voice taking control, I call it Janet. Nah, schizophrenic, I just see the real things. Can it be therapeutic to kill things? Especially when they become a burden. Like that little kid that can never get a word in. Never getting love, never been deserving. Well, hopefully they clap when it's closed curtains. I'm so certain, I ain't finna grow. I don't wanna breathe, I just wanna go. Blood on my hands, blood on my wrist, yeah. Face of disgrace, I promised I wouldn't drip tears. Small heart, big fears. Looking in the mirror, this is it, yeah. Never thought I'd be my own killer. Mom's dealer, gave me something that'll numb the filler. Every bit of the pain, the wall and floor stained. Been in this bathroom for about an hour. Grandma asleep, she thinking I'm in the shower. But by the time she wake up, no more drama. Just nerve damage and nirvana. A step closer to death, I feel karma. I feel purpose. At home, it's easy to feel worthless. The knife I used is laying on the floor. I show I'm satisfied, I done tried before. I'm having flashbacks to everything that I saw. Then I feel somebody opening the door. Blood on my hands, blood on my wrist, yeah. Family screaming, damn, my demons got me. Prayer couldn't stop me, heaven dropped me. Now I suffer, grandma calling for my mother. She don't want me, but I love her. Sorry to my baby brother. No more pain, I got your cover. All is bleeding, fuck the tub up. Grandma lift me, thought I hovered. In this world, it's gotten tougher. Pop, I love you so much, shit, I need it from you. Hope I didn't disappoint you. It was either this or join you in that prison. Grandma gripping, my small body telling me to hold on. Her palms so soft, make me wanna stay strong. Her eyes watering, wondering where we went wrong. By the time they cared, I was gone.